Allora, esami, benvenuti alla quarta puntata di Extra Extra, il mini podcast che accompagna la newsletter di Bidon sul Tour de France 2024. E fin qui abbiamo cercato di mantenere un vago barlume di serietà. Questa quarta puntata prometto che è l'unica in cui sbrachiamo, e uso il plurale, perché ho deciso di registrarla insieme ai miei due compagni di viaggio di queste quattro uniche quattro giornate di Tour de France che ho potuto fare lungo la strada, e oltretutto la stiamo registrando al buffet, dove se ne sono andati i guardiani del buffet, per cui siamo veramente alla raffa raffa. Con me ci sono Michele Pelacci. Buonasera a tutti e tutte. Rifacciamo, con me c'è Michele Florindo Callisto Pelacci. Buongiorno a tutti e tutte. Bravo, vedo che ti adegui al fuso orario. E Alessandra Autieri. Buonasera a tutte e a tutti, e anche dal mio bicchiere, faccio fare un saluto anche dal mio bicchiere di rosé che sta già colpendo abbastanza. Come sentite, questo, e prometto che è l'unica volta in cui il contenuto sarà a tasso alcolico così alto, perché è moltiplicato per tre. Poi io la rubrica continuo a farla per il resto del tour e io sarò a casa, per cui non chiedetemi di passare tutti i controlli. Così, volevo chiedere a voi due, alla fine di queste giornate che abbiamo trascorso insieme, che sono quattro tappe ma sono anche le due giornate insieme a Firenze, qual è il vostro sentore, quello che avete vissuto in queste giornate di Tour de France, che in un qualche modo sono anche un po' le prime giornate che abbiamo fatto sulle strade del Tour de France. Siamo abituati ad andare al Giro, ma sappiamo che è una storia diversa. Non la prima volta che andavo al Tour, ma la prima volta che ci lavoravo, e per così tanti giorni di fila, devo dire che, al contrario del Giro d'Italia, sebbene anche il Giro abbia una enorme importanza soprattutto per noi italiani e per l'Italia che attraversa, al Tour de France hai l'impressione, la tocchi con mano proprio, di essere al centro del mondo ciclistico in quel momento. Ed è una cosa grande, è una cosa, senti di avere tutti gli occhi del mondo addosso, non tu chiaramente, alla corsa, però la corsa ci sei anche tu. No, non sono su di te, Pelacci, no, gli occhi del mondo. È ovvio. Non doveva essere una cosa troppo seriosa, Michele. Vabbè, ma era lanciato, lasciamolo andare. No, scusa, solo dico subito una cacata. Non lo so. No. Però appunto, ti senti parte della corsa che tutti stanno guardando. È una cosa gigante. Il Tour de France ha un gigantismo di cui tutti parliamo spesso e riconosciamo, con il fatto che per esempio fa spesso i vieroni lunghi e non le stradine piccole e panoramiche, però quando arrivi su una montagna come Galibier, come oggi, non puoi non rimanere affascinato da questa grandezza che ti si squaderna davanti. Squaderna. Ale? Beh, oggi il tema può essere proprio quello dei giganti, perché oggi abbiamo fatto la strada, quella che da Brianson, insomma, prosegue in mezzo alle Alpi, in mezzo proprio ai giganti, ed è stato veramente uno spettacolo meraviglioso. E per me è stata un'esperienza bellissima, perché poi era la prima volta che mi trovavo coinvolto comunque all'interno di un podcast, di una serie di podcast o di, insomma, di interventi, e quindi all'inizio è stato un po' difficile. Poi piano piano, anche grazie all'aiuto del buffet, posso dirlo, anche grazie all'aiuto del buffet, ho rotto il ghiaccio, e quindi è stato un'esperienza che spero di ripetere, e adesso che sta finendo mi dispiace veramente tanto. Cioè, hai già la malinconia da fine tour alla quarta tappa. Che è un po' il mio classico, mi succede sempre io a casa quando tipo inizio. Ma aspetta, ti aspettano quindi 17 giorni di malinconia? Di malinconia, ma questo è un po' il mio, anche a casa mi prendono in giro. Quando inizia il Giro d'Italia, io alla prima, seconda tappa dico, cavoli, è già finito il Giro d'Italia. E adesso dico, cavoli, è già finito il Tour de France. Sei un po' come quelli che al 30 di giugno iniziano a canticchiare l'estate sta finendo. O quelli che fanno l'albero di Natale già al 30 di giugno. Michele Pelacci, anche in un minuto di intervento audio devi riuscire a guardare il cellulare. Perché sto cucinando per voi un piccolo quiz, vi va? Ah, sta diventando un podcast, vai. Perché, allora, corridori italiani che... come Richard Carapaz ieri, hanno completato la tripletta di maglie di leader nei tre Grand Tour. Chi sono gli italiani? In tutta la storia? Beh, in tutta la storia. Sicuramente Vincenzo Nibali. Sono quattro in tutto, uno è Nibali. Gimondi. Giusto? Madonna. Recenti? Me ne vengono in mente... No, me ne vengono in mente altri in questo momento. Petacchi? No. Cipollini? Nemmeno. Fabio Aru? Giusto, manca solo colui che di recente è stato visto in matrimonio con Tony F. Ignazio lo zio, Moser. Lo zio dei Moser, lo zio padre dei Moser, ok. Esatto. Bene, bravo, ottimo quiz, sei riuscito a sfornarci da un secondo all'altro prima di metterci in strada, perché adesso stiamo veramente raschiando il fondo del barile di questo buffet. Ci faremo comunque un'ultima birretta, poi ci mettiamo in strada verso il nostro pernottamento in quel di Susa. Volevo chiedere a voi così un'opinione anche sportiva su questo Tour de France. Oggi la tappa l'abbiamo vista quel che l'abbiamo vista, perché eravamo a goderci la festa del Galibier e abbiamo fatto bene a fare quello. E va bene così, però insomma cominciamo ad avere un po' di frizzantezza, di friccicorio in questo Tour de France, per cui mi chiedo, voi siete entrambi dei tifosi di Remco Evenepoel, ma al di là di questo cosa vi aspettate dal prosieguo di questa corsa? Il fatto che Remco abbia la gambetta, e anche oggi si è visto, è secondo me la cosa più eccitante guardando al prosieguo del Tour de France, ma io mi aspetto una corsa in cui potrebbe esserci un po' di maretta nella UAE. Abbiamo visto oggi nel finale del Galibier qualcosa è andato storto, insomma una squadra che dovrebbe dominare la corsa, ha magari qualche crepa all'interno, potrebbe rendere la trama per la classifica generale o anche solo per la narrativa un po' più frizzante. Cioè secondo te la maretta nella UAE può mettere in difficoltà Tadej Pogacar? Magari no, però per le posizioni di rincalzo, per un podio, potrebbe fare la differenza. Ale? Beh, sicuramente la vicenda Ayuso-Almeida può essere un tema per i prossimi giorni, appunto più che magari per mettere in discussione la leadership, che è assolutamente Pogacar è intoccabile all'interno della squadra, però sicuramente per il podio, anche se per come sono andati forti oggi non mi stupirei poi di vedere primo, secondo, terzo, ovviamente questo è un po' un'esagerazione. E oggi comunque Vingegaard è arrivato affaticato, non è riuscito neanche a fare la volata nel finale, veramente poche volte negli ultimi anni l'abbiamo visto così affaticato, però è stato bello da vedere comunque lottare così, e appunto come abbiamo detto il sogno rimane quello di vedere Remco venerdì dopo la crono in maglia gialla, basta un solo giorno. Quindi questo è il sogno di Ale Autieri, io vi ringrazio ragazzi per aver condiviso queste ore di Tour de France tutti assieme. Questa rubrica va avanti in un altro modo, perché questa è l'ultima puntata on the road, anzi sur la route. Adesso torniamo in Italia, da domani mi inventerò, non ho idea di cosa vi racconterò nel resto di questo Tour de France. In questa rubrica, non è vero, ho ancora delle idee, ho anche il sentore che sentirete anche altre voci. Nel frattempo ci risentiamo a domani con Extra Extra.